Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, ormai siamo alla vigilia di Natale, quindi vi segnalo qualche titolo adatto all'occasione. Comincio con Aspettando il Natale, 25 racconti per la vigilia, curato da Fabiano Massimi e pubblicato da Einaudi, 230 pagine, 15 euro. Qui troviamo 25 autori, da Evelyn, che è lo pseudonimo della Contessa di Latouche, una scrittrice di inizio Novecento, fino a Giulio Moizzi, che è il più recente, con Marco Lodoli di questa schiera. Una schiera che poi è arricchita da mostri sacri come Verga, D'Annunzio, Deledda e tanti altri, ciascuno con un racconto di Natale che a modo suo rievoca un particolare clima o una specialissima sensibilità. Vi propongo da questa raccolta queste righe di Luciano Bianciardi, che non rievoca un Natale ma dà vita praticamente a un corteo dei magi in un Natale particolare vissuto nel 1947, quando l'autore scrive si trova a lavorare per una società di ricerche petrolifere in Medio Oriente. Entrò col viso stravolto, le mani sporche di sangue, ma sulle labbra aveva un gran sorriso. E allora? Chiesi io. Maschio, rispose. E la madre? Riposa. Andiamo a vederla. Non ora, deve riposare. Dobbiamo fare qualcosa, disse poi Baltasar, per quel povero piccolo e per i suoi genitori. Aiutarli, sì, dissi io. Von Kaspar aveva già la mano sul portafogli, ne tirò fuori $10. Mi frugai in tutte le tasche, ma eravamo alla fine del mese e ne riuscii a rimediare 5 soltanto. Li misi sul tavolo accanto agli altri. Un po' vergognoso, ma sia Baltasar che Von Kaspar mi credettero. Non pensarono che anche stavolta, da buon italiano, volessi fare il furbo, metterli di mezzo. «Gli servirà un po' di benzina?» azzardai. «Ma sicuro», rispose il tedesco, «se vogliono arrivare ad Haifa, quella che hanno non può bastare». Girai dietro il tavolo, andai nell'angolo, alzai un telone e presi 2 jerrycan da 20 litri, e più precisamente da 5 galloni. «Andrà bene così?» chiesi, e gli altri annuirono. Ci guardavamo in faccia, come per interrogarci, senza dire una parola. Questi sono doni per il padre e per la madre, ma ci vorrebbe qualcosa anche per lui, il piccolo. Qualcosa per dargli il benvenuto in questo mondaccio, per fargli capire, o per capirlo noi piuttosto, che in mezzo agli uomini qualche volta capita di incontrare gente buona, che la gente a volte può anche essere buona, che tutti abbiamo bisogno, perlomeno una volta all'anno, di un gesto di bontà. Di farlo quel gesto, più ancora che di riceverlo. Ma cosa? Pensavo ancora. Quale poteva essere, nelle nostre baracche scassate, il dono da portare al neonato? Sì, fece Baltasar, che mi guardava e forse aveva indovinato il mio pensiero. Si alzò e andò a cercare anche lui sotto il telone. Tirò fuori un grosso barattolo giallo e ce lo mostrò. «Mosquito ointment», diceva l'etichetta. Era cioè un unguento per tenere lontane le zanzare e gli altri insetti. «Può far bene al bambino», concluse. E così uscimmo per la nostra visita al neonato, recando i nostri poveri doni. Si era formata una specie di fila silenziosa. In testa ero io coi 2 bidoni della benzina, poi veniva Baltasar con il barattolo, ultimo era il tedesco con $25 in mano. Ci facemmo avanti per guardare il bambino. Era bruno con gli occhi chiari e già si era attaccato al petto della madre. «Che bella creatura!» dissi. «Come lo chiamerete?» La mamma capì, mi guardò, mi sorrise. «Joshua!» disse. «Il suo nome è Joshua». Apriamo una parentesi su D'Annunzio, perché dello scrittore abruzzese è stato pubblicato Favole di Natale da Solfanelli, 96 pagine, 7 euro. D'Annunzio, come ricorda il curatore del volume Lucio D'Arcangelo, fu anche uno scrittore nazional popolare, come dimostrano questi racconti che, tranne uno che è anche presente nell'altra raccolta che vi ho appena presentato, un racconto sul Natale in una aristocratica famiglia russa, racconti che, diceva, attingono le loro origini dalla tradizione popolare abruzzese. Tutt'altra luce su D'Annunzio ci propone il libro Fiume di Mimmo Franzinelli e Paolo Cavassini, sottotitolo L'ultima impresa di D'Annunzio, pubblicato da Mondadori, 238 pagine, 23 euro. Qui siamo nel libro storico, testi e immagini per ricostruire questa avventura che 90 anni fa, appunto, si avviò nel settembre del 1919 con la riconquista di questa città di D'Annunzio, che la volle restituire all'Italia. dando vita a uno strano esperimento politico che sostanzialmente si sostanziò in una specie di repubblica autonoma, la reggenza del Carnaro. L'avventura sarà effimera, si concluderà drammaticamente, ma proietterà l'immagine di D'Annunzio in tutto il mondo e naturalmente darà un'impronta alle svolte politiche dell'Italia negli anni successivi. Natale è anche un'occasione per pensare agli altri, lo possiamo fare anche con un libro, per esempio con questo che vi presento adesso, di Matteo Marzotto, Volare alto, quel che ho imparato fin qui dalla vita, è pubblicato da Mondadori, 154 pagine, 17 euro. I diritti di questo libro vanno alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. L'autore è ben noto non soltanto alle cronache mondane, ma anche per gli impegni imprenditoriali. Attualmente, tra l'altro, Marzotto è il presidente dell'ente che si occupa del turismo, l'ENIT, e la sua è una vita indubbiamente fortunata ma già ricca di esperienze che l'autore racconta in questo libro con spirito lieve ma col desiderio anche di far emergere gli aspetti problematici che possono essere presenti anche nelle esistenze considerate più fortunate. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Matteo Marzotto. Buongiorno. Dottor Marzotto, in questo suo libro a un certo punto lei si presenta, o meglio presenta quella che è l'immagine corrente di lei, e si definisce come un giovane mondano benestante, un po' arrogante, sempre circondato da belle donne, e aggiunge: non ritengo che questa immagine sia molto vera. Ecco, con questo libro che immagine vuol trasmettere di se stesso? Ma guardi, non ho grandi velleità e sorrido un po' perché mi sono reso conto che questo momento storico e questa società categorizzano molto. Allora esiste una parte che la pensa come lei ha citato ed esistono altre parti che invece magari mi vedono solo azienda oppure solo mondanità oppure solo sport, eccetera eccetera. In realtà la giornata è abbastanza lunga e se si ha voglia e se si ha la possibilità si può rendere molto piena. Ecco, mi bastava dire senza nessuna velleità che si possono fare tante cose, farle serenamente, magari anche tanti errori, farli serenamente e riempiendo la giornata. Ecco, mi dispiaceva sembrare una cosa soltanto, visto che cerco di darmi da fare e farne più di una. Certo, d'altra parte però lei ha avuto una vita fortunata, una famiglia straordinaria, appartiene a una dinastia che ha fatto l'Italia industriale. Ecco, quanto pesa un'eredità di questo genere su un ragazzo, su un giovane che si forma? Ma guardi, a me, devo dirle, sono molto fortunato, ci penso tutti i giorni, però a me pesa molto, nel senso che io sono cresciuto nel mito di questo nonno straordinario, mio nonno Gaetano, ed è difficile, e ho avuto comunque il papà, alcuni zii, mio zio Pietro, insomma, ho avuto nel passato recente degli esempi col quale è difficile mettersi, come dire, in competizione, ed essendo questo, come ho detto, un mondo strano in cui la competizione te la affibbiano anche se tu non vuoi, ecco, è risultato un po' naturale, cosa che io cerco di non fare. Io cerco di rimanere me stesso, ma non posso, diciamo, esimermi da pensare alla Marzotto del dopo seconda guerra mondiale, o all'attività di mio nonno, o ai premi Marzotto, o alle nuove, come dire, acquisizioni, quindi insomma l'attività che ognuno di loro ha fatto seguendo i loro tempi e la loro storia. Ecco, quindi io sto cercando la mia via. Dirle che l'ho trovata non è automatico, però insomma lo sto cercando di fare con un occhio al passato, perché non sarei capace di fare diversamente. Nelle prime righe del suo libro lei precisa di appartenere a una generazione a cavallo tra due rivoluzioni, il 68 e l'avvento di internet, quindi una rivoluzione politica e una tecnologica. Sì. Ecco, lei da quale di queste due rivoluzioni si sente più segnato? No, io molto più segnato da internet, e quando dico internet poi cerco di spiegarlo un po' di più. Io scrivo a questi 10-12 anni, diciamo 96-97 fino al 2007-2008, questo senso di insostenibilità, quindi ascrivo un'importanza in negativo straordinaria per diciamo l'Occidente, quindi per il mondo in questa fase. Parto da internet o bubble economy perché io ricordo di essere già in azienda, di essere stato in azienda già da qualche anno, già con qualche responsabilità, e mi ricordo lo scoramento, proprio la confusione che avevo nel vedere quel che succedeva certificato da grandi istituti, grandi banche, grandi grandi organizzazioni. E, ecco, credo che quello abbia dato la spinta appunto a una fase di grande rivoluzione non sostenibile, dalla quale ci stiamo, come dire, la stiamo realizzando e ci stiamo svegliando adesso. Nel suo libro lei scrive di avere paura, fino adesso aver avuto paura di sentirsi inadeguato ad avere un figlio. Questa paura mi pare diffusa nella vostra generazione, o mi sbaglio? Beh, evidentemente, numeri alla mano, sì. Ecco, nel mio caso sono parte di una famiglia numerosa che ha continuato, ho 9 nipoti, quindi credo che i miei fratelli, per quanto riguarda la generazione, non si siano tirati indietro, e anche i miei cugini, alcuni dei quali sono molto affezionato, hanno tutto un numero di giovani, per cui fanno un po' sono un'eccezione. Ecco, nel mio caso non ho superato questo limite e ci sto ancora molto pensando. Il suo libro ha una parte dedicata alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, che fu fondata nel 1997 per ricordare sua sorella Annalisa, che era da poco scomparsa. Che cosa rappresenta l'attività di questa fondazione? Ma noi abbiamo un comitato scientifico molto qualificato, quindi selezioniamo e finanziamo dei progetti di ricerca, quindi c'è una parte più tecnica e vogliamo rimanere tali, perché siamo l'unica organizzazione di questo tipo per quella che è la malattia genetica più diffusa, diciamo, nelle popolazioni di razza bianca. E poi naturalmente però c'è la parte che è collaterale, ma non meno importante, che è quella della sostenibilità dal punto di vista della ricerca di fondi. Ecco. E quello magari è qualcosa di cui comunicazione, ricerca fondi è una cosa di cui mi occupo, non essendo io un tecnico di scienza, diciamo. Bene, grazie a Matteo Marzotto, autore di Volare Alto. Grazie. Buona domenica, grazie. Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Queste sono le note di un brano della colonna sonora del film Canto di Natale, che è stato realizzato per Walt Disney da Robert Zemeckis. È un film ad alta tecnologia che è stato realizzato con una nuova tecnica che si chiama motion capture. Ha avuto molte critiche nei giornali italiani e stranieri, alcuni ne sottolineano il valore artistico, altri lo hanno criticato, ma insomma è un film che si rifà naturalmente al grande classico di Charles Dickens, che ritorna su tutti gli scaffali e anche su molti tavoli di lettura in questo periodo, secondo me giustificatamente. Sono molte le edizioni di quest'opera classica natalizia di Dickens, ve ne segnalo alcune: quella con l'edizione in inglese originale e la traduzione italiana, che si intitola Canto di Natale, pubblicato da Alia Milano, 13,80 €. Sempre con l'edizione inglese c'è la versione di Marsilio, 242 pagine, 14,50 €. E ci sono poi tante altre edizioni, l'edizione per esempio di Caravaggio, 144 pagine, 10 €, l'edizione interlinea, 142 pagine, 12 €, questa con le illustrazioni originali di John Leach, l'edizione Azimuth, 78 pagine, 12,50 €, e infine l'edizione integrale dei 5 canti di Natale, perché Dickens in realtà ne scrisse 5, uno per ogni Natale dal 1843 al 1848, e questa è pubblicata da Newton Compton, sono 370 pagine e costa 6 €. A chi proprio non ne può più invece del Natale, qualcuno c'è che non ama le strenne, che non ama il clima natalizio, che non ama i racconti di Natale, segnalo un libro che potrà soddisfarlo, ed è il libro intitolato La Lega Antinatale di Michael Curtin, pubblicato da Minimarcos, 446 pagine, 12 €, tradotto da Massimiliano Sossella e Maria Tronca. Il libro, naturalmente, come promette il titolo, è veramente dissacrante, o meglio rispettoso delle ragioni di chi il Natale non lo ama, come confessa di fare l'autore, che è un fortunato scrittore irlandese dotato di un grande senso dell'umorismo, che assembla in questo romanzo una banda di 5 sciamannati diversissimi tra di loro, ma uniti da 2 passioni: il whist, un gioco delle carte, e il desiderio appunto di sfregiare in qualche modo il conformistico clima natalizio. E allora troviamo la giornalista, direttrice della più nota rivista femminista al mondo, il finanziere, il disoccupato, un disoccupato più che altro per scelta, il cameriere part-time che gioca ogni settimana la lotteria, salvo poi buttare il biglietto nel timore di vincerla, e poi un ricco signore convertitosi a una crociata veramente impopolare, quella di riportare nelle case inglesi ammorbate dalla moquette il linoleum, che lui assume come simbolo della proverbiale e passata sobrietà del popolo britannico. I cinque daranno vita a un'avventura spassosissima, molto umana e imprevedibile. Ma perché odiano il Natale? Sentiamo la spiegazione che ne dà uno dei cinque personaggi. E comunque, che cos'era il Natale? Lui era in qualche modo un'autorità in materia ormai. Era per i poveri? No. I ricchi? In quel periodo dell'anno seguivano il sole e furoreggiavano in maniche corte sotto l'ombrellone con un long drink ghiacciato sul tavolo e gocce abbronzate d'acqua di piscina che luccicavano sulle gambe accavallate delle loro bionde compagne. Le persone sole? Santo Dio! Il Natale per il cuore delle persone sole era il colpo di grazia. Per le persone sensibili? Il mondo ormai era un posto affollato e c'era poco spazio per la sensibilità, a Natale o in qualsiasi altro periodo dell'anno. Per chi allora? Per i vanagloriosi. Per essere esatti dovrebbe suonare «Vanaglorioso Natale e condiscendente Anno Nuovo». Era proprio fatto per loro, ma erano troppo ipocriti per ammetterlo. Invece proclamavano «Non sopporto il Natale, è un periodo del cavolo, mi butta giù». Era diverso quando ero un ragazzo. Allora non vedevo l'ora che arrivasse. Anche se era l'ossigeno che li faceva andare avanti per il resto dell'anno, loro rinnegavano il Natale. E più lo rinnegavano, più si assicuravano che il Natale non li tagliasse fuori. Tutto quello che indossavano a Natale era di Dickens & Jones, nuovo di zecca, un affare preso in saldo il gennaio precedente, dopo Natale. Le decorazioni, le lampadine, gli alberi di plastica e i cappellini di carta dell'anno prima venivano conservati con cura e poi portati giù dal solaio, così che il conto in banca subisse variazioni veramente minime. Ma questo periodo può indurre a delle riflessioni anche a chi non è cristiano. E allora, per esempio, vi voglio ricordare il libro che ha scritto il Dalai Lama con una giornalista francese, Catherine Barry, che si intitola Lettera alle donne, pubblicato da Rizzoli, 264 pagine, 17,50 €, tradotto da Elisa Carandina. L'autrice, appunto, è un'esperta di buddismo che rivolge delle domande al Dalai Lama, e queste brevi interviste su alcuni temi importanti della società attuale sono poi arricchite con alcune testimonianze. Il libro parte dalla considerazione del Dalai Lama che la prossima, dice, sarà l'era della donna. Per sopravvivere, aggiunge, il mondo ha bisogno dei valori che la donna incarna. Tra l'altro c'è anche una testimonianza della madre del Dalai Lama, di Kitzering, che spiega come si manifestò la santità del figlio. Dalle riflessioni del Dalai Lama vi voglio proporre alcune righe su un tema al quale siamo probabilmente stati molto sensibili in questo periodo, il tema del denaro. Credere che la ricchezza risolva tutti i problemi è segno di immaturità. Il denaro non aiuta a cogliere gli aspetti positivi dell'esistenza, né a essere sensibili alla vista di un bel fiore, al sorriso di un bambino, al canto di un uccello. Per questo è importante sentirsi bene con se stessi, indipendentemente dalla nostra posizione sociale e dalle ricchezze che abbiamo. In Occidente parlate in continuazione del denaro, come fosse un dio onnipotente. Le persone sono ossessionate dal reddito. Spesso credono che la felicità dipenda dal possesso di beni materiali, ai quali attribuiscono il primo posto nelle loro vite. Ma così facendo si condannano all'infelicità e alla depressione, perché l'amore, la tenerezza e la devozione non si possono comprare. Coloro che non riescono ad accontentarsi di ciò che hanno finiscono per essere sempre insoddisfatti. I soldi, la ricchezza e la fama non sono una garanzia di felicità duratura. Restiamo in tema di saggezza. Il confettino. Storie di saggezza da tutto il mondo, si intitola appunto il libro di David Self, illustrato da Cristina Balit e pubblicato dalle Paoline, 46 pagine, 12 euro. Queste sono 15 storie da tutto il mondo, dal Ghana all'Afghanistan, dall'Arabia alla Giamaica, passando naturalmente per l'Italia, che servono a voler trasmettere il gusto della saggezza che ci può aiutare a vivere comunque in una dimensione diversa e responsabile. Recuperiamo la dimensione religiosa e cristiana del Natale con due libri di due religiosi, uno protestante, per la precisione un evangelico, e uno cristiano. Il primo è Rick Warren, che è un pastore noto non solo per il suo impegno sociale, ma anche per essere quello che ha benedetto l'insediamento di Barack Obama alla Casa Bianca. Il suo libro si intitola Il dono del Natale, riscopriamo il vero significato della festa, è pubblicato da Rizzoli, 160 pagine, 12 euro, ed è tradotto da Luigi Bertolini. In questo libro il pastore Warren si sforza di recuperare appunto la tre dimensioni del tempo del Natale, quello della celebrazione, quello della salvezza e quello della riconciliazione. Lo fa rivolgendosi in tono amichevole a tutti, offrendo spunti di riflessione utili per tutti, non solo per riacquistare la dimensione autentica del Natale, ma anche per farci fermare un attimo o per dare un senso proprio alle convulse attività di questi ultimi giorni della vigilia. L'altro libro è quello di un religioso cattolico, Massimo Camisasca, è un sacerdote che ha dato vita alla comunità dei missionari di San Carlo Borromeo. Di lui esce Armonia delle stagioni, i tempi dell'uomo, della natura, della liturgia, pubblicato da Marietti, 1820, 170 pagine. Questo è una sorta di annuario diviso nei tempi più importanti dell'anno liturgico, illustrato dalle foto di Elio Ciol. Vi propongo appunto dal libro di Massimo Camisasca queste righe sul Natale. Solo gli angeli, Maria e Giuseppe, sentono gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Gli angeli vedono la luce, per gli altri tutto rimane buio. Fides mundi lumen. Questo è il Natale, la fede nell'inizio, la scommessa dell'inizio. L'inizio è ogni giorno, ogni istante. In ogni istante possiamo rinascere. Questo è il miracolo del Natale. Con questo augurio vi lascio, buon Natale a tutti, si associano a me Vittorio Mussini in redazione, Carmelo Lauricella in regia, noi ci sentiremo domenica prossima, vi auguro ancora buone feste e buona settimana.